Non ho freddo eppure tremo, perché ormai so come in un mio sogno che se proprio qui non mi sveglierò, sento che tu sei quell'amica che io non ho. Sono a casa qui più di quanto mai sarò. Segreti nel mio cuore, io ne ho da sempre, sai. Non nasconderti, se anche tu ne hai. Mostrati, rispondi, ti prego, dove sei? Qui o no? Sei la risposta che ora avrò ai dubbi miei. Dove sei? A un passo lo so. Scoprire.